Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Enzo Argante, il traghettatore, saluti a tutti. Vi ricordo che domani è, come dire, la giornata conclusiva di una campagna di Amnesty International in difesa dei difensori dei diritti umani. È un gioco di parole, ma non è purtroppo così divertente. E la campagna di Amnesty International punta alla difesa di personaggi come Shi Tao, che è in prigione dal 2004 in Cina per aver scritto un'email, o come Engamed Shahidi, che è stata torturata ed è in prigione dal 2009 in Iran per aver preso parte a manifestazioni pacifiche. C'è anche Norma Cruz, per esempio, che è minacciata dal 2008 per aver difeso una ragazza vittima di stupro in Guatemala, un avvocato. Per difendere personaggi di questa grandezza è possibile donare 2 euro inviando un SMS al 45 506. Vi ricordo che domani è l'ultima giornata possibile. Il prossimo intervento è dedicato a chi pensa che la cultura sia una zavorra, sia un investimento a fondo perduto che non produce nulla. Invece non è così, e lo dimostra la Fondazione Cariplo, che con i suoi 5 milioni investiti in 6 distretti culturali in Lombardia ha generato ben 26 milioni di euro di ritorno con le amministrazioni locali. Ce ne parla Pier Mario Vello, che è segretario generale di Fondazione Cariplo. Buongiorno a tutti. In effetti la cultura è possibile rivalutarla oggi anche come elemento di sviluppo economico di un territorio. La Fondazione Cariplo ha infatti avviato questo progetto che prevede la rivalutazione di beni su alcuni territori, la messa in rete di una funzione d'uso culturale di questi beni e il coinvolgimento anche del settore produttivo delle zone coinvolte. Abbiamo avviato 6 distretti culturali, quello della Val Camonica è stato il primo, ma c'è l'Oltrepò a Mantovano, le Regge dei Gonzaga, la Brianza, Cremona e la Valtellina, e abbiamo erogato, stiamo erogando 20 milioni di euro che hanno mosso altri 40 milioni di euro. Quindi le risorse si sono coagulate, si sono concentrate e abbiamo visto che questo progetto ha mosso tutta una serie di risorse e di concentrazione di progetti. Dire, se non capiamo male, vuol dire lavoro, opportunità di occupazione, genera altre attività collegate, è così? Certamente, rivalutazione di un patrimonio culturale dei vari territori, ma assolutamente lavoro e messa in comune di progetti con una prospettiva di lungo periodo, con una prospettiva strategica. Vuole citare qualche esempio, un pochettino per far capire ai nostri radioascoltatori, qualche intervento, per esempio in Val Camonica, che cosa avete fatto? Ma ad esempio in Val Camonica si è investito su laboratori creativi, su un museo del territorio e con lo sviluppo anche di servizi tecnologici e quindi con un'offerta culturale integrata che ha lo scopo anche di mettere in moto l'offerta turistica del territorio. Nella Brianza c'è un osservatorio d'impresa per la formazione di giovani imprenditori, ma anche la rivalutazione e il restauro di 4 sedi molto importanti e storiche del territorio. Sulle Regge del Gonzaga, Sabbioneta ad esempio, abbiamo la sperimentazione di tecniche di conservazione avanzata. Quindi c'è un volano economico, ma anche artigianale, anche culturale, che insieme possono muovere l'economia. Grazie al segretario generale Pier Mario Vello. E chiudiamo con un'ultima notizia: Happy End, lo sport per tutti. È una singolarissima manifestazione che vogliamo segnalarvi, che si tiene a Monte San Pietro ed è organizzata dalla polisportiva di questa cittadina con l'associazione no profit WTKG. La singolarità sta nel fatto che a concorrere in maniera ovviamente sportiva e non agonistica a questa giornata dello sport sono sia persone abili che persone con disabilità. La manifestazione per questo è stata inserita nel programma ufficiale della Giornata Nazionale dello Sport. È tutto per questa puntata, vi ricordo che potete segnalare le vostre iniziative a ferribot@radio24.it. In redazione un grazie ad Anita Panizza, in regia a Pietro Lacorte.